Cerchi di dare un senso alla tua vita, di fare la persona seria, ma tu hai il caos dentro, cazzo, e non c'è niente da fare. Ti sorprenderà, vedrai, in una giornata come tante, e avrà il suono dei fogli che cadono sul pavimento, delle carte che si sparpagliano, documenti a cui non riesci a dare un ordine e che rovinano a terra, perché lavoro e passione non hanno coinciso, e allora il sogno lo fai rientrare dalla finestra e dolcemente ti annienta, quando invece dovresti essere già grande da un pezzo e pensare solo a rigare dritto. Ma la poesia ti bussa sulle spalle, ti costringe a voltarti una buona volta per ritrovarti a guardare in un paio di occhi verdi e scoprire che sono i tuoi. Autogestirsi, già, magari fosse facile. Basta un niente per accendermi e per spegnermi. Una canzone, un pensiero, una frase buttata lì. Dei segnali letti col sonno di poi, dei frammenti di noi, che mi fanno inciampare, che mi fanno chiedere perché. Magia. Caso che si spoglia del suo quotidiano apparire e, finalmente, fa l'amore con caos. Io ti ho aspettato, ma tu non sei venuto. Allora vado avanti, lo stesso. Prima o poi tornerai, lo sento. Ecco, finisco di scrivere, di godermi amore e poesia. E meschina arriva la mia spada di Damocle, mi colpisce a tradimento, beffarda e sorniona, per ricordarmi che non si sfugge al proprio destino. Vaffanculo, proprio ora che avevo allentato la morsa. Ti tremano le mani. Non è colpa mia, Cristo. E invece sì. Thank you. Thank you.